I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Deborah Rosciani. Grecia e politiche monetarie. Ormai da settimane non sono che questi due i temi intorno ai quali si muovono le decisioni degli investitori e i temi che indirizzano i mercati finanziari. Oggi è una giornata particolarmente importante perché tutti gli occhi sono puntati sulla riunione dell'Eurogruppo di stasera. C'è la convinzione che si farà di tutto per trovare un compromesso fra Atene e creditori, anche se è davvero difficile, data l'asprezza degli scontri della scorsa settimana, sbilanciarsi sugli esiti dei negoziati a 10 giorni dalla scadenza dei rimborsi dovuti dal governo greco al Fondo Monetario Internazionale, oltre 1,5 miliardi di euro. I listini europei in certi casi hanno davvero tremato, mentre Wall Street è apparsa più fredda sullo scenario greco, tanto che il Nasdaq, l'indice dei titoli tecnologici, ha aggiornato ancora una volta il suo record storico. La Banca Centrale Americana ha fatto sapere che i tassi di interesse verranno alzati quando ci saranno le condizioni economiche per farlo, ma Janet Yellen, numero uno della Federal Reserve, ha detto che ogni mossa sarà preannunciata in modo adeguato per evitare la volatilità dei mercati. Il momento, tra l'altro, è talmente favorevole per le azioni americane che tornano a quotarsi nuove società dopo la battuta d'arresto di inizio anno e dopo aver chiuso un 2014 in cui si è registrato il numero di nuove quotazioni più alto dal 2293. La maggiore, ricordiamolo, lo scorso anno è stata quella di Alibaba da 25 miliardi di dollari. Nonostante la sbandata iniziale, alla fine di tutto non se l'è cavata male Piazza Affari, dove alcune scosse si sono registrate su alcune società ancora alle prese con alto indebitamento e possibili manovre straordinarie sul capitale. Saipem in particolare è stata la regina di questi rumor. Altra società in movimento, Telecom, si scommette su una imminente salita dei francesi di Vivendi al 15% del capitale del gruppo italiano. I temi da monitorare questa settimana, in cui gli indici e le obbligazioni si muoveranno di certo ancora al traino della Grecia. Oggi, ricordiamo, è chiusa la borsa cinese, arrivano le statistiche sull'andamento del settore manifatturiero di giugno in Europa. I dati più importanti che invece arriveranno dagli Stati Uniti sono le vendite di case nuove ed esistenti, il PIL del primo trimestre, beni durevoli, spese e redditi delle famiglie di maggio. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Alessandro Plateroti. È arrivata l'ora di un accordo con la Grecia? I mercati finanziari sembrano pensarla così, visto il rally delle borse, in Italia come nel resto d'Europa, e il forte recupero dei titoli di Stato, i BTP, i bonus, con un indebolimento simultaneo di quei titoli di Stato dell'Europa forte, soprattutto Inghilterra e Germania. Ma che cos'è che sembra sbloccare l'impasse? Delle nuove concessioni fatte dalla Grecia, soprattutto sullo stop ai prepensionamenti e la rivalutazione delle pensioni. Ma ci si chiede, ma dobbiamo aspettare 5 anni, far perdere alle borse 1,000 miliardi in pochi mesi per arrivare a un accordo che si poteva sottoscrivere un mese fa? Beh, l'impressione è che oggi si stia semplicemente gettando le basi per superare questa impasse e dare alla Grecia ossigeno fino a fine anno. Nessuno crede che la Grecia si riprenda da un giorno all'altro e possa ripagare tutti i debiti. Però, se non altro, questa volta sembra esserci un primo canovaccio di discussione che sembra soddisfare meglio le ansie dell'Europa, che è più intransigente nei confronti dei paesi deboli. Comunque sia, l'accordo dovrebbe arrivare? Certamente, ma la riflessione rimane sempre la stessa. Non solo quanto a lungo durerà il denaro ai greci, ma soprattutto che cosa succederà se le difficoltà si presentano in paesi più forti, e qui non parliamo soltanto dell'Italia, ma neanche, per esempio, potrebbero tornare in Spagna dopo le elezioni. Nessuno lo sa esattamente. Perché? Perché se non torna un'Europa politica in grado di presentare proposte del perché i paesi europei debbano stare insieme, malgrado le loro differenze linguistiche e culturali, beh, non c'è denaro che tenga, ma l'Europa, purtroppo, è destinata a soffrire ancora. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.